Visto che era una bella sorpresa. Beh, sì. Anche perché noi nel 2011 come paese abbiamo consumato di meno, purtroppo, perché la crisi ci ha fatto abbattere i consumi. Beh, anche e i prezzi, ci saremmo aspettati di pagare una bolletta più bassa. E invece contro i 35 miliardi dell'anno scorso, quest'anno pagheremo 37 miliardi, e questo è dovuto tutto al cambio euro-dollaro. Euro-dollaro, certo. Il debolimento dell'euro ci ha portato a questo. Sì, abbiamo importato meno prodotto e paghiamo di più. Abbiamo consumato meno benzina, secondo me, Presidente, anche per il record che ha toccato il prezzo della benzina alla pompa, non solo per la crisi. La crisi, certo, ma quando poi la benzina è record, uno si muove di conseguenza. Eppure continuiamo a spendere di più. Arrivo anche a lei, mentre però saluto anche il professor Leonardo Maugeri, che alcuni di voi ricordano perché è stato per quasi 10 anni direttore di strategia e sviluppo dell'ENI, attualmente insegna ad Harvard ed è autore di numerosi libri sul tema dell'energia, l'ultimo che ricordiamo è Con tutta l'energia possibile. Buonasera, professor Maugeri. Buonasera a voi, buonasera. In collegamento dagli Stati Uniti. Allora, Presidente De Vita, poi passeremo allo scenario strategico, ma mi dica due cose facili facili. Come mai la benzina è ancora a questo livello e non cala nonostante il petrolio sia calato dovunque? La benzina scende come scendono i prezzi sul mercato internazionale, il collegamento è sempre lineare, qualche volta si pensa che ci siano le famose doppie velocità, che è una dei tormentoni di questo nostro paese. Noi insieme con le associazioni dei consumatori, quindi con i nostri dirimpettai, abbiamo pregato, abbiamo dato incarico alla Nomisma di fare un'indagine risalendo indietro nel tempo. L'indagine è stata fatta e ha dimostrato che non c'è assolutamente alcuna asimmetria fra il momento in cui si sale e il momento in cui si scende. Il resto sono sensazioni, se dobbiamo correre dietro le sensazioni, noi non la finiamo più. Questi sono i dati di fatto. Allora, quindi il prezzo interno è strettamente connesso con l'andamento del prezzo internazionale. Domanda, però abbiamo visto un'iniziativa dell'ENI, che comunque è il soggetto più grosso in Italia, meno 20 centesimi, no? L'iniziativa per quello che riguarda il prezzo della benzina. Vorrei capire se questi margini esistano anche per gli altri o no? Ma io credo che l'iniziativa dell'ENI è stata presentata correttamente dall'ENI, cioè questa è un'azione di immagine e quindi di mercato. Non è un'azione che porta risultato economico, anzi il contrario, è stata decisa dalla società per un problema strategico, non, su questo non si possono fare i conti delle convenienze, questo è stato dichiarato tranquillamente dall'azienda, quindi non è che sia un paragone. Poi come si regoleranno le altre aziende, questo è un fatto che dipende dalle decisioni che ogni azienda prenderà in rapporto a questa iniziativa.